il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di un tema ambientale in cui il Veneto è all'avanguardia in Europa, la fitodepurazione, ovvero la depurazione dei fiumi attraverso la vegetazione. Nella nostra regione sono stati avviati alcuni progetti di questo tipo grazie anche ai consorzi di bonifica che non curano solamente lo scorrimento delle acque come si è spesso portati a pensare, ma anche alla loro qualità. Ecco, il più importante sito dove avviene la fitodepurazione si trova a Cadimezzo, nei pressi di Codevigo, ed è gestito dal consorzio di bonifica Adige Euganeo, del quale abbiamo con noi oggi il dirigente del servizio tecnico, l'ingegner Giuseppe Gasparetto Stori. Benvenuto intanto, ingegnere. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, la prima cosa che le chiediamo è esattamente che cos'è la fitodepurazione, cosa si intende con questo termine? Ma la fitodepurazione è un processo naturale che avviene normalmente fra le piante, l'acqua e il suolo, in presenza di acqua e di piante. È un fenomeno naturale che avviene in continuazione su tutta la faccia della terra dove sono presenti le piante. Quindi di fatto già i nostri fiumi, i nostri canali sono lungo gli argini, cresce lungo le sponde, crescono delle piante e quindi operano già dei processi che portano anche a purificare. Noi spesso vediamo queste piante in acqua, pensiamo che invece abbiano l'effetto opposto. Sì, l'unica novità è che proprio a seguito del problema della eutrofizzazione della laguna di Venezia, alcuni decenni fa la Regione Veneto, con una legge speciale, promosse la realizzazione nel territorio del bacino scolante, che è il territorio del Veneto, le cui acque superficiali vanno a finire tramite canali, fiumi, idrovore in Laguna di Venezia. La Regione Veneto ha promosso la realizzazione di opere di fitodepurazione con lo scopo di ridurre la quantità di azoto e di fosforo che con le acque della bonifica, che provengono dal territorio agricolo, urbano, allevamenti, fognature, perviene alla Laguna di Venezia. La novità fine anni 80 e inizio anni 90 è stata l'applicazione dei principi della fitodepurazione alle acque di scolo della bonifica. E se posso, a quei tempi, a fine anni 80 e inizio anni 90, il corso di bonifica Adige Bacchiglione, di cui ero direttore, ha proposto alla Regione Veneto la realizzazione di bacini di laminazione delle acque, di bacini di fitodepurazione, che la Regione approvò e finanziò. Quindi sono stati realizzati alcuni bacini in vari territori, in varie zone del Veneto, dove applicare questo processo? Sì, esatto. Allora si è iniziato proprio nel territorio dell'Adige Bacchiglione, che adesso si chiama Adige Euganeo, con stato di bonifica, e la prima grossa applicazione che la Regione finanziò fu quella, la nostra idea, di realizzare proprio un bacino, un laghetto di fitodepurazione di circa 30 ettari, tra superficie bagnata e superficie vegetata, 35 ettari per esattezza, con lo scopo di intercettare le acque provenienti da un canale che si chiama Altipiano, che proviene dalla zona di Este Galzignano, San Pietro Seminario. Questo canale veicolava le acque in territori agricoli e urbani e le metteva in Laguna di Venezia da alcuni secoli, nella zona di Chioggia. E in mezzo, verso la fine anzi di questo canale, abbiamo fatto quest'area, costruito artificialmente questa area di fitodepurazione, dove le piante acquatiche, quindi il canneto, la tifa, la fragmites, l'iris, le varie alghe che ci sono, sono state introdotte artificialmente, proprio piantate, e abbiamo realizzato una serie di terrazzamenti che poi sono stati invasi dalle acque in maniera governata da noi, senza uso di pompe, senza uso di nulla, e creando anche, dopo ormai sono passati 14-15 anni, creando quindi anche un'oasi molto apprezzata. Quindi il vantaggio è stato quello di fare la fitodepurazione con le piante autoctone, canneti, e in più abbiamo realizzato una bella oasi che assieme ai volontari di Lega Ambiente di Piove di Sacco è aperto al pubblico, è fruibile, è un'interessante opportunità, certo, anche ricreativa. Ecco, quindi fisicamente voi avete fatto in modo che quest'acqua vada in quest'area dove staziona per qualche giorno e poi, e quindi si depura, ne esce un'acqua più pulita, quindi depurata da azoto, se ho ben capito, e fosforo, quindi meno inquinante, e quindi poi quando va in laguna diciamo contribuisce meno alle problematiche che c'erano state, quelle per esempio che avevano portato a sorgere la crescita di alghe. Certo, preciso che però l'azoto e il fosforo presenti nelle acque di per sé non sono inquinanti, anzi sono concimi, però sono eccessivi in certi momenti dell'anno e possono arrivare in laguna di Venezia troppo rapidamente e creare quello sviluppo algale parossistico che poi ha creato l'eutrofizzazione con la morte delle piante, del pesce, un fenomeno abbastanza noto, è successo anche l'anno scorso. No, ci fermiamo, dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Piove che Dio la manda sulle bocche aperte, piove che ci si bagna sulle macchine scoperte. Sarà bellissimo fermare il tuo spettacolo in un fotogramma, raccogliere piogge e canzoni come fosse la manna. Perché ho fatto più di 100 chilometri per essere qui, a farti firmare i miei dischi e ringraziarti che esisti fra lacrime e fischi. Cantami un ero, cantami una canzone di ferro e di fuoco e di sangue, d'amore e passione. Lo sai che privato e politico si confondono spesso. Sarà diversa la musica, ma il controcanto è lo stesso. Servono piedi buoni per la salita, fortuna e talento e calli sulla punta delle dita. Per vedere ti farò suonare questa chitarra che sotto la pioggia risplende come un'arma da guerra. Giove dall'alto scaglia le sue saette e si alzano 10 palette ed è subito notte e la radio trasmette e la pioggia non smette. Cantami Omero, cantami una canzone. E nascondi nel pugno fallimento e successo. Sarà diversa la musica, ma il pentagramma è lo stesso. Sarà bellissimo fermare questa musica in un fotogramma, raccogliere piogge e canzoni come fosse la manna. Perché ho fatto più di 100 chilometri per essere qui, a farmi bagnare i miei dischi e vedere se esisti, ma ognuno si prende i suoi rischi. Alto e solenne sale sul palco Omero. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di fitte depurazione, ne stiamo parlando con l'ingegnere Giuseppe Casparetto Storti, dirigente del consorzio di bonifica di Euganeo, perché stiamo parlando in particolar modo dell'oasi naturale di Cadi Mezzo. Dicevamo che la fitodepurazione ha creato dal nulla un'oasi naturale che oggi si può anche visitare, è sempre aperta al pubblico, ma anche è un'oasi per gli animali che vi si trovano in numero molto importante. Sì, infatti dopo molti anni da quando l'abbiamo realizzata si è consolidato un ecosistema stabile, ricco di piante, di flora autoctona, dove hanno trovato riparo una quantità significativa di volatili e anche altre specie animali. Quindi lì si può trovare, a seconda delle stagioni, tantissimi uccelli, ad esempio i cavalieri d'Italia, lo svasso, l'airone, il germano reale, la gallinella, anche il falco di palude e molti altri animali, e uccelli. Si trovano anche molti altri animali, anche il tasso, e quindi è diventato di per sé, proprio perché è vietata la pesca e la caccia, un riparo naturale per molte specie di animali. È interessante anche dal punto di vista botanico, perché il fatto di essere conservato in maniera integrale, la presenza di erbe e la presenza di alberi che sono stati introdotti e anche piantati, li ha trasformato in un ricco boschetto, in parte fruibile, in parte no, perché preferiamo conservare l'ecosistema meno disturbato possibile dalla presenza umana, ma è fruibile anche per il portatore di handicap fino a una certa parte del percorso. C'è un centro visite che è gestito da Legambiente e quindi è anche fruibile dal punto di vista culturale. Ecco, interessante questo sodalizio con delle associazioni di volontariato del territorio e quindi che possono gestire anche dei siti che sono portati avanti, realizzati da voi. Sì, per noi è stata una grandissima opportunità e una grande fortuna avere questo tipo di collaborazione, perché ci ha permesso a tutti di sviluppare ancora di più gli aspetti anche culturali, anche scientifici e didattici di queste aree. Poi ne abbiamo negli anni tutti i consorzi di bonifica della Gronda Lagunare, erano quattro, adesso siamo tre perché sono stati riuniti, hanno fatto altre opere di questo genere qua, in tutto il bacino della Gronda Lagunare, quindi tutto l'entroterra della Laguna di Venezia, sono presenti aree più o meno grandi di questo genere. Quella di Cadi Mezzo, ecco, è la più grande in assoluto. Ecco, questi progetti sono facilmente replicabili, cioè si può pensare anche di estenderli da altre parti, sia per i benefici appunto per la qualità delle acque che per i benefici a livello ambientale di queste oasi che si creano, oppure sono dei casi particolari? No, si può fare ovunque nei nostri climi, chiaro, ovunque c'è acqua, ovunque c'è la possibilità di far attecchire le piante proprio autoctone, quindi il canneto, la cosa più semplice che c'è. I nostri, che sono partiti alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, erano sperimentali. Ormai le conoscenze scientifiche, le collaborazioni che sono state con moltissime università hanno diffuso queste tecniche, che sono state anche ulteriormente perfezionate. Quindi gli interventi di questo genere più piccoli sono presenti sicuramente in Veneto a decine e a decine, realizzati in particolare dai consorzi di bonifica sotto l'egida della regione che li ha finanziati. Quindi sono perfettamente replicabili in scala, anche piccola scala, quasi residenziale, e anche in vasta scala, l'abbiamo dimostrato, e anche la regione con altri importanti bacini di fitodepurazione che ha realizzato proprio anche all'interno della Laguna di Venezia. Quindi ecco, ormai sono i primi in assoluto, ormai le repliche sono innumerevoli. Benissimo, la ringrazio. Arrivederci, grazie a voi. Passiamo adesso alle consuete notizie e restiamo in tema di aree umide d'acqua dolce. Saranno esse le protagoniste della terza edizione della giornata della biodiversità in programma il 12 giugno prossimo. Dopo aver affrontato i temi dell'agroforestazione e della flora spontanea, alle aree umide verrà dedicato un incontro alla Corte Benedettina di Legnaro organizzato da Veneto Agricoltura, nel corso del quale verranno presentate esperienze e riscontri concreti da parte dei protagonisti di interventi di conservazione, ripristino, valorizzazione. Sempre in tema ambientale, il 2014 segna la nascita di Boster Nord-Est, un evento fieristico gemello di Boster, il più grande appuntamento dedicato alla filiera del bosco, del legno e alla gestione sostenibile del territorio montano. Sarà ospitato dalla Foresta Demaniale Regionale del Cansiglio dal 6 all'8 giugno prossimi. Oltre all'esposizione tutta all'aperto di attrezzature e servizi funzionali alle filiere del bosco, La fiera prevede un ricco programma di workshop, laboratori e attività didattiche, convegni e sportelli informativi che approfondiranno le tematiche legate al settore forestale. Il programma è disponibile sul sito internet www.fieraboster.it. Il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato la delibera di istituzione del Parco Regionale Ambientale e Antropologico di Interesse Locale della Laguna Nord di Venezia. Entro 3 mesi la Giunta Comunale proporrà al Consiglio le linee guida del piano ambientale che verrà successivamente approvato, dando così pienamente vita al parco. L'istituzione del Parco della Laguna Nord riporta al centro dell'attenzione le isole della Laguna, l'arcipelago che ha meglio conservato i caratteri tradizionali della civiltà lagunare e che soffre da anni una condizione difficile. Il parco sarà lo strumento per tutelare questi caratteri e rigenerarne la vitalità, garantendo migliori opportunità per le comunità residenti a sostegno sia delle attività tipiche, sia di nuove attività come le forme intelligenti e leggere di turismo alternative al modello di massa, in un quadro di rigorosa tutela ambientale. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.